Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Ci siamo, sono le 15 e 22 secondi a Radio 24, è il momento di dare il via al sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio, come sempre il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Come tenerci compagnia? Beh, insomma, c'è il nostro numero che potete usare per SMS e WhatsApp, 349-238-6666, e c'è anche il mio account di Twitter e anche di Instagram, Chiocciola Marta Cagnola, semplicissimo. Poi c'è anche un cancelletto ISDV come hashtag, se preferite utilizzare l'hashtag. Ma di cosa si parlerà nella prima ora di questo sabato del villaggio? Beh, l'appuntamento con le tecnologie torna come sempre con Enrico Pagliarini. Parleremo di grigliate con il nostro gastronauta, poi ancora tutte le uscite al cinema del fine settimana, ma partiamo subito parlando di televisione. Emma, sai, pensavo che a un certo punto potrei cantare quella canzone francese, ti ricordi? Beh, eh? Veramente una bella idea. Guarda, è bellissima. Poi parla dell'amore, della vita, della morte. Che allegria, papà. Ma perché non ci possiamo comportare da una famiglia un po' meno eccentrica? No, non penso che ce la facciamo. No, non ce la possiamo. Io se ci fossero state le prove del mio di matrimonio, che non ci sono state, avrei voluto una cosa allegra, divertente. Un bicchiere con un po' di zucchero. Aspetta, vado io a prendere. Pensa se cantavo. Finché sei qui, tutto può succedere. Questa era una clip tratta da Tutto può succedere 2. È tornata questa serie televisiva italiana che era piaciuta moltissimo nella prima stagione ed è andata molto bene anche la prima puntata della seconda stagione, 4.088.000 spettatori su Rai 1 questa settimana. È ricominciata Tutto può succedere, è cominciata anche un'altra fiction, sceneggiata, un tempo si chiamano sceneggiati, che bello, film TV, chiamateli come li volete, serialità italiana che sta andando molto molto bene. Allora, per cercare di capire un po' questo fenomeno, per capire perché vale la pena seguirla, se vale la pena seguirla, a chi consigliare questi prodotti, ci colleghiamo subito con una bravissima giornalista che è anche un'amica mia, ma anche un'amica del sabato del villaggio, non so se chiamarla Tremenza come il suo sito o semplicemente Alessandra Menzani, che è anche critico televisivo e cronista televisiva di Libero. Ciao Alessandra! Ciao, buon pomeriggio a tutti! Sia Alessandra che Tremenza, tutte e due! Ma guarda, oggi sarò buona, quindi sarò poco trementa, ok, dai. Allora, sono piaciute, intanto questa Tutto può succedere 2, che era molto attesa, era andata bene la prima stagione, è piaciuta? È piaciuta, ha fatto il 18%, ha vinto la serata su Rai 1, e trovo che sia una fiction molto, vabbè, a parte la recitazione, di altissimi livelli, cioè tutti gli interpreti, da Maya Sansa ai genitori, i nonni genitori, ai ragazzini, cioè sono tutti veramente bravi, per cui è un livello di recitazione che, cioè, sarà un po' un cliché, però si dice tanto per la fiction italiana, a volte non si trova, anche se ultimamente, soprattutto quella della Rai, secondo me è molto migliorata. E poi, insomma, trionfano i buoni sentimenti, una serata, cioè in questo periodo di grandi tensioni, una serata sicuramente rilassante. Alessandra, sì, amore, famiglia, amore, conflitti, famiglia, che poi si riescono a risolvere un po'. Conflitti, una piccola forse, non dico pecca, però una nota che forse è anche il suo bello, però sottolineerei, è... un pochino il buonismo, nel senso che è molto rilassante, molto bella, molto piacevole, però non c'è nemmeno un personaggio un po' di rottura, un po' anche sarcastico oppure un po' cattivo, cioè non dico cattivo, però un po' impertinente o comunque irriverente. Ecco, se nota, se, non so se avete notato, sono tutti fondamentalmente buoni e concilianti, no? Manca un po' secondo me questa cosa, però insomma. Alessandra, tu hai citato Maya Sansa. Ah, certo. Hai citato Maya Sansa, una delle protagoniste. Noi l'abbiamo colta, tra l'altro vi dico, l'abbiamo colta ieri, l'abbiamo disturbata mentre era al parco giochi con la bimba, è veramente tenerissima, perché lei è una splendida mamma, oltre che una bravissima attrice. Ecco come ha colto questo successo di Tutto può succedere 2. Siamo molto felici, e, insomma, eravamo curiosi anche noi, perché poi quando si lavora su una serie si perde un po' di vista l'ordine degli episodi, le sequenze, quindi finalmente anche noi abbiamo visto la prima puntata e è stato bello. Quando è nata Tutto può succedere, non tutti ci credevano tantissimo, perché dicevano vabbè, ma chissà se gli italiani sono capaci di fare una sorta di Parenthood italiana, non ce la faremo mai. E invece avete conquistato tutti, anche quelli più scettici, lo sai? Beh sì, per fortuna siamo riusciti a conquistare un bel pubblico, un pubblico anche che di solito non guarda la televisione, insomma è stata un'esperienza veramente molto, molto bella, che continua ad andare avanti, e anche lo scambio con la gente che segue la serie è sempre molto, molto ricco, molto interessante. Mi piace questo nuovo mondo, perché insomma il cinema, io ho sempre fatto cinema, anche cinema d'autore, e ha un pubblico un po' di nicchia, cioè adesso magari incontro molto facilmente persone anche per la strada, in aeroporto, che seguono la serie, mi manifestano insomma il loro entusiasmo e condividono anche con me le loro riflessioni sulla famiglia, sul fatto che finalmente possono condividere delle serate con i figli e guardare la stessa cosa anziché ognuno sul proprio tablet, no? Beh, anche questa è un'osservazione interessante, quella di Maya Sansa. Alessandra Benzani, sì, è vero, unisce un po' la famiglia, effettivamente ci sono tante generazioni, si può guardare insieme. È vero, ci sono tante generazioni, si può guardare insieme, e trovo che sia una fiction che in qualche modo, è vero, svecchia un po' anche come linguaggio e come velocità, e cioè, è una fiction corale, quindi sono tanti personaggi, tutte le età, la ragazzina che ha la storia con l'ex mezzo galeotto, l'altra ragazzina che vuole fare la cantante, i genitori anziani che vivono una specie di crisi, anche a 70 anni che ci può essere una crisi matrimoniale, ma anche magari... Qualche anno fa non ne avremmo mai parlato, insomma. Non hai parlato... E invece poi tutto un target di 40-50 anni, quindi ci sono tutte le fasce d'età, e è vero, come linguaggio non è, cioè per Rai 1 è piuttosto, ciao, sono invecchiata io, oppure te no, la lo seguo, escludo. Ma piace da matti. Lo escludo. Sono improvvisamente invecchiata, perché ultimamente me le sparo tutte quelle di Italia 1, sì, di Rai 1, oppure effettivamente da 2 anni io ho visto un po' di un cambio di linguaggio, secondo me, nelle serie della Rai. Allora, Alessandra, visto che hai detto te le spari tutte, questa di Padre e figlia che è iniziata, sì, questa settimana, com'è? Sì, è molto bene, anche quella ha un cast pazzesco, Alessio Boni, c'è la Capotondi, la Rocca. Che tutto poi parlata in Veneto, ma è una novità anche quella lì. Di solito c'erano sempre state le fiction romano-centriche, oppure anche questa è una novità. Beh, non mi dispiace, c'è una Stefania Rocca molto brava, anche la Cavallin che fa l'ex prostituta che si è comprato un negozio grazie all'amante che poi è Alessio Boni, che poi è il marito di Stefania Rocca, è fatta molto molto bene. Il tema qui è il rapporto del padre con, praticamente ha 4 figlie e lui voleva il maschio a tutti i costi, e si vede che col maschio c'è un rapporto privilegiato, allora le figlie crescono, insomma è un po' questo vecchio modello del volere il figlio maschio, così, insomma, una società che adesso magari non è più così, però è veramente interessante. Bella, parte dal 58 molto, agli anni 80. Nel esatto. Cast c'è una giovane attrice molto sulla cresta dell'onda, abbiamo interpellato anche lei per sapere un po' com'è andata la sua avventura con Di padre in figlia, Matilde Gioli. 6 milioni e mezzo di persone sono tantissime, quindi per me sono numeri inimmaginabili. Forse io ero quella meno, come dire, cioè quasi meno in attesa, ma perché non essendo ancora nel meccanismo, appunto non sapevo cosa aspettarmi. Adesso so che dalla prossima puntata sarò la notte lì ad aspettare di sapere quante persone lo hanno guardato. Allora, l'unica polemica, ma non è vero, che c'è stata un po' in rete è quella sull'età, perché effettivamente sì, avete delle età molto vicine tra generazioni, le età anagrafiche degli attori, ma c'è una ragione per questo? Ma il concetto è che secondo me lì sta il regista a scegliere cosa privilegiare, cioè se una coerenza fiscale dell'età, oppure se ha un provino, un attore che ha colpito particolarmente più di un altro perché era più adatto per quel ruolo, allora si fa una scelta diversa. Io nei panni di un regista farei la stessa scelta, cioè sceglierei in base al personaggio, cioè se quell'attore è il personaggio perché lo vedo mentre sta facendo il ruolo, allora piuttosto gioco un po' con l'età, con il trucco, o sì, rischiando anche magari una polemica del genere, però se poi la sua interpretazione è più efficace, anch'io privilegerei quello piuttosto che l'età. Tu che sei così sportiva, dinamica, te le fai le serate sul divano con la copertina a guardare le fiction? Sì, beh, ma ultimamente molto spesso, perché comunque questo lavoro porta molto in giro, quindi c'è un po' meno energia per uscire tutte le sere come magari facevo un tempo quando ero universitaria, e quindi no, volentieri, no, mi piace tantissimo, sempre con cibo e fiction, sì, assolutamente sì, è un po' la mia serata tipo, ti devo dire. Vabbè, abbiamo sentito che anche per Matilde Gioli la serata tipo è divano e fiction, quindi siamo a posto, Alessandra. No? Cioè, è una di noi. Finalmente. Anche Francesca da Verona, che ha mandato un WhatsApp al 349-238-6666. Tutto può succedere, mi piace moltissimo, concordo che sia di ottimo livello. Stavolta non siamo state né tremende né tremenze, tremenza Alessandra, esatto, Manzani. Te l'ho detto che sono invecchiata. No, ma davvero, effettivamente hanno un ottimo successo. Allora, si parla di cose di alto livello, ecco. Quindi se c'era quell'appunto del buonismo, secondo me ci sta, però è veramente molto, molto buona come realizzazione. Carlo da Torino, la Maya di In Treatment è splendida, l'interpretazione è il punto più alto della serie, a Carlo è piaciuta In Treatment, mi dà l'occasione, il gancio per andare invece a vedere cosa fa Sky. Insomma, Mediaset un po' missing in action in questo periodo sulle fiction, invece Sky, beh, stiamo aspettando 1993. Sì, 1993, l'hanno presentata a Cannes. A me 1992 era piaciuta, ha avuto tantissime critiche, è stata un po' controversa per alcune recitazioni. Sì, c'erano state un po' di polemiche, sì. Esatto, proprio di Thea Falco, così, però io l'ho trovata molto interessante. Poi, essendo cresciuta negli anni 90, perché essendo comunque avendo quell'età lì che non si dice comunque. No, perché dobbiamo dire, ma perché dobbiamo dire quell'età lì? Esatto, siamo cresciute negli anni 90. Negli anni sì? 90 c'era la mia adolescenza, quindi io tutte quelle, esatto, quell'epoca, cioè l'abbiamo vissuta dalla televisione, non è la Rai, e l'inizio del berlusconismo e tutto, quindi abbiamo memoria, anche se un po' vaga, non comunque da ragazzini, quindi sì, l'ho trovata interessante perché racconta un'epoca che era la nostra e comunque un'epoca non ancora raccontata così bene, e quindi 1993 non ho visto l'anteprima, però insomma da quello che ho letto sarà centrale Berlusconi, la sua figura, l'ascesa in politica, Craxi, il lancio delle monetine, sono molto curiosa. E la televisione, tutta quell'epoca che poi si prepara per arrivare al 94, quello che è l'anno della rivoluzione, che sarà raccontata anche nel 1994, poi avrà anche questa terza serie, terza stagione. Da quello che ho letto, i produttori appunto hanno intenzione di fare questo trittico dell'Italia 92, 93, 94. E lo aspettiamo con ansia. Tra l'altro vorrei... no, tantissimo. Visto che hai citato Non è la Rai, parleremo di Gianni Boncompagni in RadioTube, nella terza ora del Sabato del Villaggio, perché non possiamo non parlare di Gianni Boncompagni. Ne parleremo in particolare parlando di radio, perché è stato parlato, cioè si è parlato tanto, è stato ricordato tanto per le sue avventure televisive, e noi parleremo ovviamente molto della sua grande storia radiofonica. Grazie, certo, ad Alessandra Menzani, libero tremenza.it. Questa volta buonissima. Buon pomeriggio. Grazie, esatto. Alessandra. Traffico. Ciao, grazie. Alessandra. Traffico, e poi saremo insieme per parlare con il nostro gastronauta. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Il sabato del villaggio. Era George Benson, ma che bella questa Hot Barbie. Poi a me questa musica così porta sempre un po' indietro col tempo. Ero qua che ballavo in studio, meno male che siamo alla radio e non si vedeva. Parliamo di griglia, Hot Barbecue. Questo è uno degli spunti che mi ha anticipato il nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao. Eh beh, è la stagione, eh? È la stagione? È una bella stagione, ci sono appunto le gite fuori porta, quindi la grigliata torna alla grande, ma è una modalità questa che veramente sta tornando, magari anche differenziata rispetto al passato, perché la griglia non è il barbecue, e questo ci cominciamo a fare la prima distinzione, perché griglia di solito si intende quella che cuoce direttamente a contatto diretto con la fonte di calore, okay. Ma sul barbecue invece si cuoce grazie al calore indiretto e in presenza del fumo, quindi sono due cose completamente diverse. Tra l'altro il barbecue può essere anche alimentato con la carbonella o a gas, mentre la griglia entra il legno, e quindi ci sono molte teorie su quale legno e anche su quale carbonella, perché ci sono i sofisticati che addirittura la carbonella se la preparano loro, vanno nei boschi a trovare un certo tipo di legno e poi si passa al processo per arrivare alla carbonella. Quindi hai detto tipo di legno, cambia da tipo di legno a tipo di legno? Esattamente, c'è chi sostiene la colorazione, per esempio sulla griglia, c'è chi sostiene invece l'olivo, e quindi c'è in Toscana sostengono che per cuocere una grande fiorentina alla griglia ci vuole l'olivo, e chi invece da altre parti sostiene che la grigliata va fatta per la carne, mi riferisco a rifatta con la quercia. Poi ci sono ovviamente le altre sofisticazioni, che si va al pesce, sì, o si va alle verdure. Quindi che c'è un mondo molto interessante come quello del barbecue, perché il barbecue, il famoso BBQ degli americani, se uno va in un negozio Aspetta Davide, che ti sentiamo un po' meno in questo momento. Dicevi il barbecue? Il barbecue chi va in un negozio americano dove ci sono appunto tutti gli attrezzi, c'è un mondo, dai guanti alle asticelle per prendere la carne, tutta una serie di cose sofisticate con dei costi non indifferenti. Oggi ci sono dei barbecue che costano tantissimo, mentre la griglia è una cosa molto più semplice. Poi ora è arrivata anche in Italia un nuovo mezzo, per cuocere a questa maniera, che secondo me è molto vicino al barbecue, però ci sono molti sofisticati che dicono che non è proprio barbecue, e si chiama green egg. È uno strumento a forma di uovo, come dice la parola stessa, che pare fosse stato utilizzato dai militari americani durante il Vietnam, durante la guerra di Vietnam, e oggi è messa in vendita, si trova in vendita, può essere piccola, ci sono tantissime dimensioni, lo usano i ristoranti ma si usa anche a casa. Lo stavo googlando per vedere le immagini, sì, è proprio una specie di ovone verde, sì. Esattamente, è un ovone verde che costa abbastanza, però io ho trovato già diversi ristoranti che lo adoperano, perché fa poco fumo, tra l'altro, quindi è più cuoce come una griglia, ma fa poco fumo, e quindi è importante questo. Vabbè, professionale, perché... sto guardando subito, io piena di poesia, 1100 euro, 2600 euro, insomma non è una cosa domestica, ok? No, te l'ho detto che costa molto caro, costa molto caro. Ma torniamo un po' al discorso, quindi, delle carni, sì. Perché diciamo che la griglia è molto più conosciuta per le carni, anche se su tutto l'Adriatico sicuramente si cuoce anche il pesce. La famosa grigliata di pesce dell'Adriatico tra Rimini, Vizzone, Cesenatico e a Cattolica si cambia, ecco, tutta quella zona lì sicuramente è molto importante per le grigliate di pesce azzurro dell'Adriatico. La carne qui ormai è diventata importantissima, perché ormai diciamo che ci sono diverse razze di carne che girano, e soprattutto sulla griglia si sente sempre nominare Kobe. Ecco, allora io voglio fare una chiosa su questo. Oh, che bello, Kobe, perché sentiamo sempre parlare come se fosse, no, la cosa più pregiata da assaggiare. Spiegaci. È una cosa pregiata che costa l'ira di Dio, non ci sono dubbi. Ma Kobe è una città, quindi sarebbe dire come la Chianina, la carne Chianina, Gaiole in Chianti, un altro paese del Chianti. Kobe è la città. In realtà la razza si chiama Wagyu, o Wagyu, è una razza molto particolare che si coltiva, si alleva appunto soprattutto nella zona di Kobe, e addirittura ci sono da area a area sono molto diversi anche i costi di questa carne. Si dice, ma questo ormai è sempre meno vero, che fosse preparata, allevata con il massaggio e con un'alimentazione molto particolare a base di luppoli, e quindi si diceva di birra. In realtà è una rarissima razza di manzo, su questo non ci sono dubbi, è nera, cioè è distinta dal colore nero, ed è molto imponente, diciamo che può raggiungere anche 500 kg, quindi una carne, diciamo una bestia enorme. È veramente una straordinaria carne, perché ha una marezzatura, e devo dire che la marezzatura è stupenda in una bistecca, un pezzo di carne, perché non è grassa, ma ti dà quel sapore di grasso, quindi è molto importante la carne di Kobe. Quindi vale la pena investire nell'esperienza. E ti aggiungo una mia cosa, oggi sto parlando di griglia, ma secondo me la carne Wagyu va mangiata cruda, e secondo me un carpaccio di Wagyu è una cosa straordinaria per chi ama la carne, per chi non la ama magari non viene apprezzato. Poi certo, ci sono altre razze importanti, che c'è il Black Angus, e questo arriva da diversi paesi, non è solamente argentino, ma c'è anche l'americano, c'è l'australiano, ce ne sono tanti poi che sono, diciamo, si sono alimentate nel tempo. E devo dire che ora in questo momento la griglia e il barbecue, la carne che va più di moda in giro per l'Italia, ahimè, perché dico ahimè perché non vedo questo grande valore, grande qualità, è la carne spagnola, una vacca spagnola molto vecchia. Ecco, invecchiata, è proprio così. E quindi questa carne qui ora va per la maggiore. Però, come dicevo, ormai questa tendenza è anche nella grandissima cucina, perché tutti parlano sempre del Noma di Copenaghen e di Redzepi, che è questo mitico chef. Eppure in questo ristorante si mangiano cose, siamo di muschi, licheni e tutto quello che è selvaggio, però si mangiano anche delle cose tipo l'anatra cotta alla griglia, e addirittura Redzepi, in questo ristorante mitico di Copenaghen, fuori, perché non può dentro, ha una specie di capannello dove lui ha costruito appunto una griglia, dove c'è sempre un cuoco che cuoce la carne del giorno alla griglia. Quindi la griglia entra anche nell'alta cucina? Entra anche nell'alta cucina, e come? Ecco, diciamo che c'è anche un mito spagnolo, che ora la sua griglia è arrivata in Italia perché è un modello che non è quello tradizionale, che si chiama Victor Echevarri, ed è un basco, un ristorante, e addirittura anche lui è entrato sesto nella graduatoria dei famosi 50. Ecco, la sua griglia la stanno copiando ovunque, e anche a Milano, alla griglia di Varrone, che secondo me oggi è il locale più interessante per mangiare carne, quindi carne alla griglia, ha una griglia che è il modello di Victor Echevarri, quindi diciamo che anche qui c'è stata una sofisticazione, che non è più la griglia della tradizionale che pensiamo a casa, ma ci sono anche griglie di ristoranti di una certa imponenza, appunto perché permettono di cuocere carni su carne. Allora io dico a Milano, ho detto la griglia di Varrone, però a Milano sono altri posti, perché c'è il Portegno, un ristorante argentino, e anche il Carnicero, che sono due ristoranti di notevole qualità. Poi si va in Toscana, perché in Toscana c'è la tradizione della bistecca. Certo. E allora si va dal mitico Dario Cecchini, il poeta, il cantore della Divina Commedia, nonché macellaio, che con la sua officina della bistecca a Panzano offre una grandissima carne. A Firenze poi ci sono altri posti, c'è la Buca l'Api, la Buca dell'Orfo, sono tutti specializzati appunto nella griglia e nella bistecca, diciamo, alla fiorentina. Che c'è da dire? C'è da dire che c'è anche una tradizione storica in Puglia. In Puglia. Da sempre i macellai hanno un'area che viene chiamata i fornelli. Ci sono molti macellai che non si chiamano i fornelli, ma se non si chiamano macellai, ma i fornelli. Che cosa viene servita? Invece tu puoi comprare la carne e te la cuociono anche direttamente. Quindi c'è questa tradizione di carne cotta addirittura nella macelleria. Un altro posto importante è a Torino, che è la Casa del Demone. Anche qui si mangia un'ottima carne. Non mi sono allungato sul pesce, perché, come dicevo... Vabbè, ma facciamo un'altra puntata poi sul pesce, sì, perché poi cominciamo ad entrare nella stagione in cui ci viene ancora più voglia di pesce. Certo, la verità è questa. Certo. Davide, ora ti do la chicca, veloce. Esatto, il momento della chicca, anche perché siccome ho già avuto un'indiscrezione, mi interessa molto, raccontami. Allora, io sostengo da sempre, l'ho già detto più volte, che in Brianza sono delle straordinarie pasticcerie, ma sulla ristorazione, insomma, lascia un po' a desiderare. Ebbene, però, ultimamente ho scoperto una chicca, a Monza, in quel di Monza, si chiama Il Moro. Ebbene, è interessante perché questo ristorante è gestito da tre fratelli di una stessa famiglia: Salvatore in cucina, Vicenzo in sala e Antonella Ivini. Proprio tutta una famiglia siciliana che da anni vive a Monza, schierata. Bene, il locale è molto carino, è molto piccolo, con pochi tavoli. Diciamo che l'origine siciliana si riflette in molti piatti, però c'è anche una certa personalità, diciamo, su quello che si mangia. Ad esempio, se in giro si va a mangiare il crudo, ti viene servito in un piattone tanti pezzi di crudo, tanti pesci crudo, però non c'è, come posso dire, un accompagnamento significativo. Mm-hmm. Bene, qui invece ci sono 5 portate di crudo, che ognuno ha il suo abbinamento. Faccio un esempio: le ostriche hanno una zuppa di mandorle e di raffadali. Raffadali è un posto famoso della Sicilia. Poi c'è la zuppetta di conchiglie, che ha le granite. Il gambero di Mazzara del Vallo ha un intingolo, e poi ci sono anche delle tartare che vengono servite con delle salse verdi e rosse, e poi ci sono, per finire, questo è interessante, si finisce con un piatto di pasta. Piatto di pasta che sono linguine, aglio orsino, olio, peperoncino e una tartare di orata. Bene, devo dire che questo piatto di pesce mi ha molto colpito. Non c'è solamente il pesce, ovviamente ci sono anche tanti altri piatti, e ho spiluccato nel piatto della persona che era con me, e ho assaggiato uno spaghetto di Gragnano, frutti di mare, porro e lemongrass. Come vedi, c'è una certa originalità in tutti i piatti. Si può scegliere su 4 menù, ce n'è anche uno completamente siciliano. C'è una carta dei vini con dei prezzi ragionevoli, quindi stiamo riperdendo. Davide, eccoti. È un posto dove si va volentieri e spendendo il giusto. Ecco. Il Moro di Monza. E questo ovviamente prendo nota, perché ormai lo sapete, sono brianzola, quindi finalmente abbiamo segnalato anche una bella tappa per tutti i milanesi che vogliono uscire fuori città. Anche la e venire. Di livello, anche la... Guarda, sono le 15:29, mi dici frittura, mi viene già voglia. La frittura va bene a tutte le ore. Grazie Davide Paolini, ci sentiamo il prossimo sabato. Ciao, a presto. A presto al nostro gastronauta. Noi facciamo una breve pausa. Già vedo Enrico Pagliarini che si aggira per la redazione. Vi dico che non so di cosa parleremo, quindi sarà una sorpresa anche per me. Tra poco parleremo, ve la dico così, in genere, di tecnologie. Il sabato del villaggio. Ma quanto era tamarro questo pezzo, che era da un po' che ve lo sentivo. Bentornati al Sabato del Villaggio, con questa atmosfera un po' ora dell'aperitivo in spiaggia, ma molto tamarra però. Però al di là di tutto, sapete cosa mi ricorda questo pezzo? Ciao Enrico, Enrico Pagliarini è arrivato in studio, stava stava districando i fili delle cuffie. Mi ricorda Focus Economia, perché Sebastiano la usava molto questa come base, come pezzo in Focus Economia. Vabbè, niente, no, parliamo di tecnologia, Enrico. Perché Save Me? Mi hanno detto no, possiamo usare Save Me, e io l'ho detto, non so di cosa l'avete parliamo. L'avete selezionata la canzone? Sì, sì. Ah, siamo noi cum grano salis, ci pensiamo, mica a caso. Ma perché noi abbiamo sul nostro telefonino, sui computer, sì, dei file, mm-hmm, che tutto il giorno urlano, salvami, salvami, cioè sul file preoccupati. Sì. Ma allora, ogni tanto succede nei luoghi di lavoro, e da noi in redazione succede spesso, che qualcuno dica, non ho salvato il file. Che per noi spesso è un'intervista. Però che per diciamo noi spesso, che, ecco. Poi diciamo la verità, i nostri sistemi salvano in automatico tutto, quindi sono fatti perché perdiamo. Sanno che noi non siamo proprio così. Allora, però, dacci qualche conforto, perché adesso io che penso ai poveri file lì che soffrono e urlano salvami, salvami, insomma, mi mette un po' d'ansia. Allora, dai, dacci qualche conforto, Enrico. Dunque, il motivo di questo mio intervento in questo pomeriggio è richiamare l'attenzione di tutti al salvataggio dei dati. Dopodiché uno deve farsi un sacco di domande e cercare le risposte. C'era anche uno che diceva la risposta è dentro di te, ma è sbagliata. Quindi devi ascoltare la radio oppure leggere in giro che cosa ti suggeriscono gli esperti. Dunque, che cosa ci dicono gli esperti? Che oramai il mondo si divide, a proposito del salvataggio dei dati, in due grandi emisferi. Quello del cloud, sul quale c'è un po' troppo entusiasmo. Adesso stiamo parlando di cloud personale, okay. Non stiamo parlando di cloud aziendale, mondo tutto diverso, molto più complicato, però anche lì c'è un po' troppo entusiasmo. Ok, tra poco smorzeremo gli entusiasmi sul cloud. Esatto. E l'altro emisfero, che è il cloud personale inteso come dischi che io tengo in casa o che tengo vicino al computer o che mi porto in giro a passeggio come voglio. Sono due mondi diversi. Probabilmente la ragione sta nel mezzo, come sempre succede, cioè dovremmo utilizzare una soluzione che utilizza un po' l'emisfero nord e un po' l'emisfero sud. Allora, dici, quando adesso può andare bene il cloud? Allora, il cloud, che vuol dire molto spesso servizi che abbiamo già inclusi nella parte gratuita, per la parte gratuita sul nostro telefonino, perché quando accendiamo un telefonino, che sia o iOS, cioè iPhone, che sia un Android, ricordiamo che a seconda dei paesi fa l'80-90% del mercato, certo, quindi comunque è una percentuale, cioè immagino che molti dei nostri ascoltatori abbiano un telefono Android. Quando noi accediamo a tutti i servizi che sono collegati al telefono, abbiamo già incluso gratuitamente uno spazio cloud. Cioè, da qualche parte nel mondo c'è qualcuno, cioè o Apple o Google, poi ci sono anche dei servizi collegati di terze parti, poi magari ne parliamo, ma che ci dicono puoi salvare i tuoi file, che siano file di testo, fotografie, video, e prevalentemente, diciamo, oggi foto e video sono quelle che pesano di più, li puoi salvare. Esempio, faccio una foto, sì, e posso far sì che le mie foto vengano salvate automaticamente. È classico, no? Sì, vuoi, sì, che le tue foto vengano salvate direttamente su iCloud, Drive, eccetera? Esattamente. No, sto capendo. Sì, ma anche perché insomma, è abbastanza facile questo mondo. C'è. Una prima, non ridere perché... No, rido perché stai capendo, ma sia abbastanza facile, no, ci puoi arrivare anche tu, anche Valeria in regia si è messa a ridere. Non volevo dire questo. Qua siamo in diretta, non possiamo andare indietro, tagliare, rifare. Noi siamo in direttissima, siamo allora, qua. Spazio gratuito, primo problema del cloud è che tutti questi servizi hanno uno spazio gratuito limitato. Certo. A parte per alcune funzioni, c'è chi ti dice tu salva tutte le tue fotografie, non ti preoccupare. Ma in cambio chi ti offre questo servizio gratuito e illimitato, mm-hmm, ci mette un po' il naso e va a vedere che cosa c'è nelle foto, per fare analisi che possono essere un servizio nei nostri confronti, ma anche analisi in generale. Quindi primo problema, spazio gratuito limitato. Se vogliamo più spazio, cioè se facciamo un sacco di foto, un sacco di video, facciamo un sacco di documenti di vario genere, beh, dobbiamo pagare. Quindi a quel punto lì ci leghiamo a un costo di un abbonamento. Giusto per capirci, mediamente gli abbonamenti costano per un tera. Oggi un tera di spazio è una cosa che sta diventando sempre più normale. Certo. Un tera, 10 euro al mese. Ok. C'è chi, ad esempio, Dropbox è un po' più economico. Questa potrebbe essere un'idea. Però ci leghiamo a un servizio che dobbiamo pagare. E lo paghiamo per sempre. Nel momento in cui non paghiamo più, i nostri dati non sono più nostri e non possiamo più accedere a quei dati. Quindi dobbiamo organizzarci. Ma li usa qualcun altro o vengono... No, non li usa nessun altro, però diciamo che noi non possiamo più utilizzare. Però non possiamo più accedere. Allora, uno dei vantaggi è che è sempre disponibile. Se abbiamo un collegamento a internet, certo. Quindi altro, cioè nel momento in cui non avessimo un collegamento a internet non accediamo più ai nostri dati. È sicuro, perché qui c'è il grande tema, è sicuro o non è sicuro? Beh, direi che è abbastanza sicuro, cioè questi sono sistemi che sono sicuramente presidiati con tecnologie all'avanguardia, però c'è un problema. È sicuro, ma un po' dipende anche da noi, perché accedere a questi spazi richiede una password. E se la mia password è 1234? Oppure Paperino, oppure password 1, c'è una ci sono degli esperti che quasi tutti gli anni fanno la classifica delle password più utilizzate, cioè vanno a vedere quando vengono bucati dagli hacker vari siti internet, ci sono degli archivi, dei database con le nostre password, e quindi poi quelle password diventano disponibili e gli esperti possono andarle a vedere. Ed è una cosa incredibile, cioè la gente continua a utilizzare 1, 2, 3, 4, 5, 6, password 1, Paperino, cioè il nome, il mio nome, ma, no, ma vabbè. Quindi, la data della nascita, dei figli e del matrimonio. Esatto. Allora, l'altro emisfero a cui abbiamo fatto riferimento, cioè questo è il mondo del cloud, molto facile, molto anche, devo dire, comodo e affascinante, perché sul nostro smartphone, parto dallo smartphone, ma le stesse cose valgono anche poi per il computer, ci vengono fatte queste domande, vuoi, e molto spesso uno per comodità, certo, o per pigrizia dice sì. L'altro mondo che ha dei vantaggi, anche qualche piccolo svantaggio ovviamente rispetto al cloud, è per questo che dico che forse la soluzione migliore è trovare una strategia che richieda un poco dell'uno e un poco dell'altro, è comprarsi un bel, adesso lo dico traducendo e semplificando molto, un bel disco esterno da tenere in casa, okay, che si può collegare anche a internet. In gergo tecnico alcuni di questi prodotti si chiamano NAS, significa che dentro ci sono più di un disco. Uh-huh. E se c'è più di un disco, una delle cose belle di questi sistemi che io tengo in casa è che automaticamente questi sistemi fanno il backup, cioè mettono una parte dei dati sul primo disco e una parte dei dati sul secondo disco. Quindi gli ascoltatori non mi vedono, ma io sorrido perché tutte queste cose me le hai già spiegate per bene quando dovevo comprarmi un hard disk esterno. Bravissima. E in questo modo che cosa succede? Visto che i dischi si rompono, uno può andarlo a sostituire. A questo punto uno dice, vabbè, ma non è più comodo il cloud? Allora, probabilmente in termini di comodità potrebbe anche essere più comodo. Il grande vantaggio di questi sistemi è, prima di tutto, hai il pieno controllo dei tuoi dati, cioè i tuoi dati sono a casa tua. E c'è chi dice, ma se arriva il ladro? Ecco, a questo punto effettivamente uno dice, vabbè, se mi rubano questo strumento, il cloud ha un grande vantaggio. Certo. Noi possiamo, ad esempio, scegliere e pensare, beh, a parte che uno può prendere un secondo disco e metterlo dalla zia in un cassetto e insomma diciamo bisogna che la probabilità sia sì, però dicevo uno, secondo me una delle soluzioni migliori che io ho adottato e altri che conosco hanno adottato è avere un bel NAS o chiamiamolo disco esterno vicino al proprio computer con tutti i dati, tutti, anche quelli del telefonino, eccetera, eccetera. Ci sono delle strategie di sincronizzazione abbastanza semplici, uno si applica un pochettino, ma ci sono le applicazioni, insomma, i software sono molto facili, molto semplici. Uno si tiene tutti i propri dati lì in casa, al sicuro, comodi. Tra l'altro questi strumenti sono collegati ad internet, quindi anche in questo caso io posso accedere ai miei dati dall'esterno, quindi dal mio telefonino, dal mio computer portatile, anche quando sono in giro, e magari alcuni di questi dati posso ulteriormente salvarli anche nel cloud, quindi faccio un doppio tipo di salvataggio. Con uno potrebbe dire, vabbè, ma allora non risolvi tutti i tuoi problemi. In parte è vera questa questa affermazione, questa risposta, però posso scegliere quali dati, non tutti, ad esempio io alcuni dati li salvo solo in locale, altri certo. Li salvo. Mi rendo conto che anche in questo caso stiamo parlando di un'operazione, una serie di operazioni che richiedono tempo. Però vale la pena, dai. Però vale la pena, infatti ho esordito dicendo vorrei richiamare l'attenzione sul salvataggio dei dati in generale, perché poi quando accade il problema sono dolori, nel senso che se uno non aveva una strategia di salvataggio e non si è organizzato, poi quando si incendia la casa, se non aveva l'assicurazione oppure i sistemi certo. antincendio, non può recriminare. Posso farti una domanda sul sì, budget? Certo. Visto che tu mi sì, hai sì, detto un tera di iCloud sono circa 10 euro al mese. 10 euro al mese. Ma allora diciamo che se uno fa il paragone con un disco esterno, in un anno, anno e mezzo, massimo due anni, si è ripagato il sistema, che però ti dura tanti anni. Certo, io ho certo. il mio sistema che dura da anni. Poi, tra l'altro, questi sistemi prevedono che uno possa cambiare anche solo un disco. Quindi okay. uno può fare l'upgrade mano a mano, che poi a un certo punto queste macchine richiedono, come tutte le macchine, come molte delle macchine che noi utilizziamo, così come i telefonini richiedono di essere sostituiti e cambiati. Però ci sono tutta una serie di vantaggi che allora, il primo e principale penso che sia quello di avere i dati sotto controllo. Certo, no, beh, non è poco, cioè, ormai abbiamo... Poi capisco che a volte la pigrizia o d'altro canto la comodità faccia sì che noi non pensiamo troppo a tutti i temi legati alla privacy, al controllo dei dati. Ovvio che questi sistemi sono collegati a internet, quindi hanno e possono avere tutti i problemi del cloud quando noi non abbiamo una password forte. Però ad esempio possiamo anche stabilire che alcune cose siano accessibili dall'esterno, alcune cose non siano accessibili certo, dall'esterno. Certo. Quindi, questo ad esempio è una cosa importante è avere in testa che è importante fare il backup, e molti di questi sistemi, soprattutto con il mio disco esterno, prevedono backup automatici. Quindi io mi dimentico di tutto. Una volta che ho impostato il sistema, lui fa il backup automatico. C'è una... Bisogna un po' studiare. Ecco, un ascoltatore che dice d'accordo su tutto, ma occhio ai NAS per utenti dummy, cioè insomma un po' principianti, sì, è vero, si sì. rompono a volte a livello elettronico. Usarli solo come backup, non come archivio unico. Maurizio da Bolzano dice diversi miei clienti ci sono cascati. Però qui stiamo parlando di un mondo forse... small business o ufficio dove secondo me bisogna fare una però già mi piace insomma l'idea che ricordiamo l'importanza di salvare i dati, perché questa è la cosa più importante, perché anche in presenza di servizi cloud molte persone che conosco con cui parlano utilizzano la parte gratuita ma hanno molti più dati e una parte dei dati non viene salvata. Poi perdi fotografie, perdi... No, infatti. Poi sono le stalle dopo che i buoi sono scappati. Esattamente, sì. 16:46, siamo in ritardo di un minuto. Traffico, via. Poi abbiamo ancora qualche istante insieme con Enrico Pagliarini al Sabato del Villaggio. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta il Sabato del Villaggio. Allora, arrivano anche un po' di domande, anche un po' più tecniche, al 349-238-6666, e anche un sacco di complimenti, grazie a Massimo Di Motta di Livenza, grazie a Franco D'Aledro, insomma, leggo anche complimenti, perché no, ogni tanto fanno piacere. Allora, Enrico, domanda difficile. Dino chiede, ci sono cloud di diritto italiano? Dunque, per il mondo consumer direi di no. Per il mondo professionale business, sì. Però poi bisogna andarci a guardare bene dentro, certo, nel senso che certo. comunque stiamo parlando di un dipende anche, se parliamo del mondo aziendale, dipende anche che tipo di dati devi salvare. Mm-mm. Perché ci sono tutta una serie di dati sensibili che devono essere correlati con tutta la legislazione, la regolamentazione, quindi sì. Comunque ci sono. Allora c'è Stefano da Palermo che ha dei problemi a seguire la diretta sul web. Stefano, sul telefonino scarica la nostra app di Radio 24 che funziona benissimo. Esatto, sì. E però so che insomma Per ascoltare la radio. Però anche a Palermo, non so se è già attivo o stanno per attivare, comunque siamo addirittura d'arrivo, i nostri bravissimi tecnici che stanno creando una delle reti DAB, parlo di digital radio, più belle d'Italia, stanno accendendo nuove antenne, nuove stazioni anche in Sicilia. Abbiamo coperto già il più o meno 70% della popolazione, c'è una bella rete in tutta Italia. Se comprate una macchina nuova, compratevela con la radio DAB, certo. Obbligatorio. Se no, c'è io Valeria continuo in regia a dire, che dice di sì. Annuisce, esatto, brava. Lo ripeto tante volte, se il concessionario vi dice che è un optional molto costoso, ditegli fammi lo sconto. Così mi offri tu la radio DAB, perché dovrebbe essere ormai di serie su tutti i modelli. Purtroppo non lo è in molti modelli, circa la metà dei modelli ha anche la radio DAB digital radio di serie, però insomma è ormai la nuova frontiera della radio anche in Italia. Devo dire che tutte le radio stanno facendo le loro reti. Una cosa bella e simpatica è che in alcune occasioni si possono fare con la radio digitale le pop-up station. Così, come i negozi che si aprono ogni tanto, una radio che si apre ogni tanto. Esatto, temporary store, cioè i negozi temporanei. Allora, in questi giorni, in piazza Gae Aulenti, vicino a Garibaldi, a Milano, c'è il Festival della Radio, Radio Days, Festival della Radio. Ci sono tante radio italiane, ci siamo stati anche noi con ieri a Tempo di Sport. Ci siamo anche domani e venite domani alla maratona dalle 18 alle 20, ci sono io, venitemi a trovare. Ecco, c'è questo bel festival, ci sono anche delle radio straniere. Che cosa è stato possibile fare con la radio digitale? Cosa che in FM non è possibile fare. È stata creata una stazione radio solo per questi giorni di festival. Che bello! Una pop-up station. Domani pomeriggio vieni con me a fare un giro a Radio City? Dai. Sì. Dai, andiamo a fare un giro insieme a Radio City. Allora, Radio City Milano, Unicredit Pavilion, domani pomeriggio appunto, maratona dalle 18 alle 20, una bellissima maratona di lettura dedicata ad Amatrice, davvero un'occasione molto molto importante, ma ve ne parleremo ancora durante il nostro Sabato del Villaggio. Ultima cosa, Enrico, 2024? 2024 ha un fantastico super podcast, quasi non mi ricordo di cosa abbiamo parlato, no, in realtà mi ricordo, abbiamo parlato di security, di sicurezza, di tante altre belle cose, e quindi scaricate il podcast. A me piace fare dire Enrico Pagliarini super podcast. Super podcast. Mi piace perché, tantissimo. Perché lo ricordiamo, ci sono tutte le interviste in versione integrale. Straordinario. Delle belle lunghe chiacchierate. Enrico, rimani con noi perché adesso ci colleghiamo con il nostro grandissimo Franco D'Assisi per il cinema. Mi chiamo Tim, avevo i genitori migliori del mondo. Svegliati, amore. Oggi è il giorno, porta il figlio al lavoro. Cosa? Eravamo solo noi tre, i Templeton. La vita era perfetta, fino a quel fatidico giorno. Tim, guarda chi è arrivato. Ti presento il tuo nuovo fratellino. Indossa l'abito scuro. Sì, è un ometto. Portala 24 ore. Credimi, un giorno lo amerai con tutto il cuore. Mai. E questo è il momento delle uscite al cinema del fine settimana. Beh, questo era un film molto atteso, ne abbiamo sentito parlare tantissimo, ma per sapere se è un film consigliato oppure no, beh, insomma, lo chiediamo subito al nostro super esperto Franco D'Assisi. Ciao Franco. Ciao Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, Baby Boss è una delle proposte più interessanti di questo fine settimana, film che tra l'altro in America ha avuto una partenza importante, secondo in classifica nello scorso weekend, ma ha già incassato 116 milioni di dollari. Come dire, è un film che ha sicuramente raccolto molto. È una storia divertente, quella di un bambino di 7 anni che vive nella sua casa coccolato come si conviene ai figli unici, ma in questa casa irrompe, proprio il caso di dire, un nuovo bebè, e chiaramente la leadership del figlio, del primogenito, comincia un po' a vacillare. Gli sguardi dei genitori sono sempre un po' più teneri, le coccole si trasferiscono, e insomma tutto potrebbe sembrare normale, se non che il bambino fratellino, il settenne Tim, vede nel suo fratellino una sorta di agente segreto della CIA, vestito come una sorta di dirigente d'azienda, con la 24 ore, lo sguardo torvo, e ci parla, frutto chiaramente della sua fantasia, proprio in quella maniera. Insomma, la dinamica fra i due fratelli è quella che anima questo film, che è assolutamente un film per tutte le famiglie, ma con quella capacità di essere anche un po' ruvido, in certi momenti cattivello, che ne fa un pochino un contraltare al mondo Disney. Qualcuno ha detto c'è un po' la risposta DreamWorks a Inside Out, ecco sì, forse c'è anche un po' di Pets, se vogliamo, c'è la questione del nuovo arrivato che scalza dalle proprie privilegi, diciamo, chi c'era già. Sicuramente però un film che ha un grande ritmo, una grande capacità di arrivare a tutta la famiglia e che poi alla fine dice una cosa molto sensata e, se volete, anche abbastanza scontata, che però va ogni tanto ribadita, soprattutto ai più piccoli, quella che i genitori amano i figli più o meno alla stessa maniera. È solo la stagione della vita, sono solo l'età che cambiano e che cambiano i modi di fruire di questo sentimento. Comunque un film che è sicuramente la proposta per famiglie più interessante di questo weekend. Franco, invece, tra le uscite italiane cosa possiamo segnalare per questa settimana? Tra le uscite italiane devo dire che mi ha molto colpito questo film La Cabadora di Enrico Pau, che è un regista di grande interesse. Il suo film del 2007, Jimmy della Collina, fu un film indipendente di cui si parlò molto, ha una grande capacità espressiva. Enrico Pau stavolta dirige un copione che muove da un grande successo letterario, quello appunto della Cabadora di Michela Murgia, ma che se ne distacca in maniera abbastanza decisa. Quindi non aspettatevi una trasposizione cinematografica, ma è un film più o meno, come si usa dire, liberamente tratto. La storia è ambientata alla fine degli anni 30, a cavallo degli anni 40, una donna, Annetta, che arriva nella grande Cagliari proveniente da un piccolo centro delle campagne sarde, sempre vestita di nero, e il suo ruolo è appunto quello della cabadora, della donna che porta la buona morte, un ruolo molto presente, ancestrale, ma molto presente nella cultura rurale della Sardegna di quell'epoca. I bombardamenti di Cagliari la porteranno, come dire, a riabbracciare un pochino quella che è la sua che è un po' una sua caratteristica, una sua, chiamiamola pure, missione, e che forse era il motivo per cui era andata via da quel luogo. Bravissima Donatella Finocchiaro nel ruolo della protagonista, in un film che vede anche Carolina Crescentini e Sara Serraiocco nel cast. Bravo Enrico Pau a staccarsi, come dicevo, dal copione, a evitare le venature più, diciamo, classicamente thriller che si potrebbero ascrivere a un copione così, e invece a portarlo su una metafisica e anche su momenti fantasy davvero cinematograficamente molto riusciti. Quindi un film assolutamente consigliabile. Abbiamo ancora tempo per un consiglio. Franco, cosa ci proponi? Ma guarda, in questa settimana, con tantissime uscite, facciamo un salto anche in Francia con le cose che verranno, perché sono tanti gli estimatori di Isabelle Huppert che potranno rivederla sullo schermo in questo film firmato da Mia Hansen-Love, la storia di una donna di 55 anni, insegnante di filosofia, a sua volta autrice di testi di filosofia, in mezzo a una crisi che supera quella della mezza età, perché il marito a un certo punto sbanda e va in un'altra direzione, la casa editrice sembra volerla mollare e i suoi appigli diventano sempre di più, da una parte i figli e dall'altra un giovane intellettuale che le ricorda se stessa, ma di qualche anno prima. Come sempre, quando il film ha bisogno di una figura di riferimento centrale e anche abbastanza di testa più che di cuore, Isabelle Huppert è il personaggio giusto. Lo fa tra l'altro con una grandissima leggerezza, che è il valore aggiunto che la Huppert porta in un film che altrimenti sarebbe stato forse troppo cerebrale, che invece si consegna allo spettatore come un film assolutamente interessante. Grazie Franco, l'appuntamento con te dunque è dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea. Ciao! Ci sentiamo alla Rosa Purpurea, approfondiremo questi ma anche tanti altri film, sono ben 13 quelli che escono questa settimana, e come sempre giocheremo insieme con il nostro film misterioso più tardi. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con la seconda ora del sabato del villaggio. Come sempre il numero per i vostri sms 349-238-6666, sia per gli sms che per i whatsapp. Allora, sono arrivati un po' di messaggi per Enrico Pagliarini. Abbiamo parlato di cloud, è un argomento che evidentemente interessa molti. Li giro Enrico perché, come sapete, insomma, lui poi approfondisce ancora in maniera più tecnica, più approfondita, appunto, gli argomenti di cui parliamo nel sabato del villaggio con 2024. Scaricate il podcast, anzi il super podcast. Girerò tutti i messaggi a Enrico Pagliarini. Ma di cosa parleremo in questa seconda ora? Intanto, ve lo dico subito, avremo due ospiti straordinari, Ferruccio Spinetti e Nada, per parlare di Nada Trio, veramente due artisti enormi, grandissimi. Poi con Maria Luisa Pezzali, la pagina dei consumi, parleremo di un argomento molto molto curioso, le macchinette automatiche. Con Alessandra Tedesco, i libri del momento, qualcuno ha creato anche delle grosse grosse polemiche, ma cominciamo parlando di musica. Era Prince, lo avete riconosciuto, un anno senza Prince, torna questo disco straordinario, torna questo 1999 in una favolosa edizione in vinile. Perché ne parliamo? Perché oggi 22 aprile è il Record Store Day, la festa dei negozi indipendenti di dischi, è il decimo anniversario, la decima festa del Record Store Day. Ci sono un sacco di attività ed iniziative in tutta Italia, vi dico solo il sito recordstoreday.it, perché così in ogni città trovate tutte le indicazioni, tutti i negozi di dischi che veramente organizzano delle cose meravigliose. Ma io voglio tornare a parlare di questa passione per il disco in vinile. Allora, sapete che io, ne abbiamo parlato spesso, sono molto legata, proprio così, in maniera viscerale, al disco in vinile. Sono una grande collezionista. E però c'è un grandissimo collezionista che è anche autore di questo libro che esce proprio in questo periodo, Soul Funky Passion, che è il libro ufficiale italiano del Record Store Day 2017, Marco Cavenaghi. Buonasera Marco Cavenaghi. Buonasera. Insomma, buonasera, buongiorno, è sempre un po' difficile, sono le 16:09 minuti, c'è buon ancora pomeriggio. Buon pomeriggio, diciamo così. Marco, da quanti anni collezionista? Ma da fine anni 60. Ecco, quindi qualche migliaio di dischi. Che poi dire a un collezionista quanti dischi ha non è bello, perché insomma il numero non è così significativo. Beh, dipende dai punti di vista. In tutte le collezioni il collezionista guarda la quantità, però in certi casi bisognerebbe anche guardare la qualità. Esatto, e quindi io so di chicche veramente incredibili nella tua collezione. Ma sì, Marco, sono abbastanza decine di migliaia. Ecco, considerando, ecco, anche CD, non ho solo vinile, perché come tutti sanno, all'inizio degli anni 90 il vinile stava scomparendo, per cui io mi sono trovato di fronte alla decisione di o smettere o continuare. Ho deciso di continuare acquistando CD, poi con eBay, e a partire dai primi anni 2000 ho trovato cose che non avevo trovato nei 30 anni prima. Quindi Marco, in Soul Funky Passion cosa racconti in questo libro ufficiale italiano del Record Store Day? Ho fatto una sintesi di quelle che sono le cose più rare che ho accumulato in 40 anni di collezionismo. quindi ho considerato prevalentemente musica americana nera, soul, funky. Straordinario. E chiaramente ho considerato tutte le cose che ritengo più strane. Chiaramente da allora ho accumulato altre cose che sarebbe spazio per un altro libro. La quantità di materiale è infinita. Da dove bisogna cominciare una collezione, se uno volesse cominciare da oggi, per scoprire questa soul funky passion, Marco? Ma diciamo che al giorno d'oggi è difficile, perché un giovane di sicuro non si mette, può darsi che abbia la voglia di iniziare a collezionare un altro genere di musica, però escludo che un ragazzo giovane inizi a acquistare o per passione o per investimento questo genere musicale. Dove bisogna iniziare? Bisogna iniziare da cose comuni e poi appassionarsi, perché sono quelle cose che il collezionismo sorge quando si è giovani. Certo. Beh, però adesso si ricomincia a parlare di dischi in vinile, secondo me con un po' di esagerazione sui numeri, perché insomma non è che sia proprio tornato come un tempo, però la passione è tornata. Tornato anche perché il supporto CD sta diminuendo, certo. Oramai è tutto digitale, per cui il vinile da un punto di vista tecnico ha una qualità migliore, certo. Per me non è così, però dicono gli esperti che il vinile non ha la qualità del CD. Hanno delle inoltre, qualità diverse, possiamo dire. Hanno delle qualità diverse, inoltre il CD è un supporto che non si sa bene quanto durerà, perché magari fra 30-40 anni fa la fine dei nastri che si magnetizzano. Mentre invece il vinile, chiaramente, se ben conservato, ha una durata infinita. Sono estremamente d'accordo, per ragioni... Anche se i vinili in buona qualità sono pochi. Io devo dire la verità, migliori sono i giapponesi, peggiori sono i sudamericani, in particolare i brasiliani. Vero. Gli americani ce n'è di buoni e ce n'è di meno buoni. Io non ho più conflitto di interessi, perché c'è già qualche ascoltatore che me l'ha scritto. Sì, la mia famiglia ha stampato dischi in vinile per 60 anni, ma non lo facciamo più perché mio papà è in pensione, quindi io non ho conflitto di interesse. Che cosa sei stato disposto a fare per un disco raro, Marco? Ma io, appunto, come già avevo detto in occasione di un'altra intervista, c'è un limite a tutto, per cui... Diciamo il disco però ognuno mette l'asta in un posto diverso, in un'altezza diversa. Sì, no, ma dicevo appunto che mi è capitato, a me piace Prince, devo dire che oggi in questo periodo è l'anniversario, il primo anniversario della sua morte, e degli 80.000 items che io ho in archivio, Prince indubbiamente è quello più rappresentato, perché avrò qualcosa come 3.000-4.000 titoli, tra soprattutto CD, bootleg dal vivo, eccetera. E sono venuta a sapere che un album di Prince è stato assegnato a $30.000, mm-hmm. non di per se stesso, come facente parte di un set che è stato assegnato neanche su eBay. Io non l'ho saputo, per cui non avrei puntato una cifra del genere, anche perché poi ho saputo che i pezzi che c'erano su quell'album poi si trovavano in altri dischi, per cui... Io al limite sono arrivato a sborsare $4,000-5,000 per un pezzo raro. Beh, per un collezionista, ecco, può essere una cosa. Però una è cifra, difficile, sì. Trovare, diciamo, gente che spende quelle cifre, devo dire. Io vendo anche, ho venduto recentemente un disco per cui avevo speso 1.500 euro al doppio, e quando guadagni qualcosa lo vendi. Fatto la copia sul CD e l'ho venduto, insomma. Però è raro, ecco. non è un buon investimento, per cui le collezioni qua hanno un valore molto relativo, nel senso che è più una passione che... è più una passione, cioè io ho sentito di un collezionista brasiliano che lui, collezionista nel senso di numero, c'ha 3-4 milioni di pezzi e compra collezioni, cioè va a comprare. Devi avere spazio. Beh, indubbiamente deve avere spazio, ma non spende certo più di 10-15 centesimi per pezzo. Per cioè, cui compri collezioni intere. Marco, collezioni intere. Ti faccio un'ultima domanda, visto appunto sì. Che il Record Store Day oggi. Cosa diresti a chi così volesse oggi entrare in un negozio di dischi indipendente la prima volta o insomma ha perso l'abitudine di farlo, qual è la magia nell'entrare in un negozio di dischi e comprare un vinile? Se un collezionista di stare attento, perché al giorno d'oggi molte cose vengono ristampate, per cui se uno ha l'obiettivo di investire, di stare attento, perché ci sono i falsi anche in quel settore lì, e poi controllare la qualità. Sono completamente d'accordo. Allora, Soul Funky Passion, libro ufficiale italiano del Record Store Day 2017, l'ha scritto un grandissimo collezionista, Marco Cavenaghi. Grazie per essere stato con noi al Sabato del Villaggio. Grazie a voi, arrivederci. Grazie e buona musica, buona collezione, intanto buon vinile a tutti, che ha proprio quell'odore favoloso. Vabbè, un po' di traffico, poi apriremo un altro capitolo, e proprio apriremo il capitolo dei libri. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Il Sabato del Villaggio. E ritorniamo insieme con il nostro Sabato del Villaggio dopo questa breve pausa per parlare di libri. C'è già qui Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta. Allora, questa settimana è stata la settimana di grandi polemiche per un libro, quindi ti devo subito... vedi, ce l'hai già tra le mani. Allora, sì, Marta, cominciamo così in maniera molto sobria. Sì, sobrissima direi, nel senso che allora è un libro di cui si sta parlando tantissimo perché sta creando veramente delle spaccature fra i critici letterari, i giornalisti. Il libro si intitola Bruciare tutto, l'ha scritto Walter City, pubblicato da Rizzoli. Allora, Walter City sicuramente è uno scrittore di rottura. Il libro, io ho letto alcuni brani, quindi non mi permetto poi di giudicare nel complesso, perché appunto voglio leggerlo con calma tutto, però vi posso dire che è un libro molto molto forte perché ha suscitato polemiche. Allora vi dico brevemente e nel modo più diciamo carino possibile. Racconta la storia di un prete pedofilo, Don Leo. Il romanzo sono una serie di sue riflessioni e un dialogo anche costante con Dio su quella che è la sua pulsione, su quella che è il suo peccato. E poi c'è uno snodo importante nella storia, che è quello che poi ha creato tutto questo scandalo e questa polemica. A un certo punto c'è un bambino che diciamo si propone e il sacerdote diciamo resiste alla tentazione, però il piccolo si toglie la vita, e quindi da qui c'è tutto un discorso sul prete che si domanda che cosa sarebbe stato meglio fare a quel punto. Allora, il romanzo è sicuramente da maneggiare con cura, come si dice. Il caso è scoppiato in settimana perché in prima pagina di Repubblica un'altra scrittrice, tra l'altro molto brava, Michela Marzano, ha fatto una critica molto forte, dicendo sostanzialmente che lo scrittore arrivava a giustificare la pedofilia come il suo personaggio. Altri critici, come per esempio Emanuele Trevi, hanno sottolineato che è necessario distinguere fra le idee dell'autore e quelle invece che esprime il suo personaggio. Ecco, per onestà intellettuale ti dico, non l'ho ancora letto tutto e non voglio esprimermi finché naturalmente non l'ho letto tutto. È innegabile che sia il libro del momento e quindi il libro di cui tutti stanno parlando. Quindi però diciamo che è il libro del momento di cui tutti stanno parlando, ma non è mica detto che tutti l'abbiano letto. No, e infatti ecco, a questo punto io diciamo lo consiglio così un po' a scatola chiusa, però con chi vuole essere anche al passo con le polemiche di cui si sta discutendo. Tra l'altro, ecco, ti segnalo a proposito di appuntamenti del fine settimana che chi si dovesse trovare a Milano, sai che è in corso Tempo di Libri, la nuova fiera ci dell'editoria, sono stata, esattamente sì, è molto milanese. Bella, a me è piaciuta molto, non affollatissima. No, quello però assolutamente mi è piaciuta molto. E domani ci sarà proprio l'incontro-scontro, forse un match fra appunto Michela Marzano e Walter City su questo libro. Quindi insomma è un libro da, ripeto, maneggiare con cura, ma da commentare solo dopo che lo si è letto fino all'ultima pagina. Cosa che ultimamente non va tanto di moda. No. Ecco, io non dico nulla, non l'ho ancora letto, conosco Infatti ho detto Walter io mi astengo, perché finché non lo leggo tutto non dico il mio pensiero, però non potevamo non parlarne. Certo, non lo so, mi fa anche un po' paura, non so cosa dire. Alessandra, passiamo ai consigli. Ci riconfronteremo. Passiamo ai consigli, vogliamo i consigli dei libri da leggere questa settimana. Allora, diciamo, ho scelto questo libro per chi vuole, diciamo, scoprire una parte della nostra storia, la storia italiana dimenticata. Sai, ci sono molti appassionati. Io stessa mi sono appassionata nel senso che non sapevo assolutamente nulla di questo episodio vero della storia italiana. Il libro si intitola Nessuno può fermarmi, l'ha scritto Caterina Soffici, pubblicato da Feltrinelli. Ci sono personaggi di fantasia, però, come dicevo, la storia è vera. Siamo nella Londra degli anni 40, una Londra piena di italiani che lavorano, aprono ristoranti, insomma c'è Little Italy per intenderci. Nel momento in cui Mussolini si schiera con Hitler e dichiara quindi guerra anche alla Gran Bretagna, quegli italiani che vivono e lavorano da tanti anni a Londra improvvisamente diventano nemici. Quindi che cosa succede? Churchill ordina sostanzialmente di arrestarli, mandarli in campi di prigionia. Solo perché sono italiani, vengono tutti considerati a priori fascisti. E pensa che fra loro c'erano anche molti antifascisti, addirittura degli ebrei italiani che sono stati internati con l'accusa di essere dei fascisti. Più di 1000 prigionieri vennero imbarcati allora su una nave, la Randora Stara, per essere portati, diciamo deportati, in Canada. Un sommergibile tedesco la colpisce, insomma la nave affonda. Ci furono centinaia di morti italiani. Questo è un fatto vero, questa è storia che io non conoscevo sinceramente e che ho appreso attraverso Nessuno può fermarmi, attraverso questi personaggi di fantasia, perché si tratta di un romanzo. E diciamo c'è un personaggio, il giovane Bart, che decide di scoprire il passato della sua famiglia, insomma vuol sapere soprattutto che fine ha fatto suo nonno, perché nella sua famiglia nessuno vuol parlare della morte di suo nonno. E Bart contatterà Florence, che era stata una grande amica di suo nonno durante la guerra appunto a Londra, e attraverso le sue parole ricostruirà quanto accaduto. Alessandra, dopo due testi così che mi hanno lasciato un po' a bocca aperta, un altro consiglio magari così? Guarda, ancora per chi ama, diciamo, i mix fra storia vera e personaggi di fantasia, ma anche, diciamo, per chi ama l'arte in genere. Se ti dico un nome, Van Gogh. Che fascino, che bellezza, che meraviglia. A che quadro che pensi storia... se ti dico Van Gogh? I girasoli. Ecco, vedi, ci si divide fra girasoli e la stanza, presente? Quindi insomma più o meno siamo divisi. No, invece non sapevo se dirti girasoli o la notte stellata. Vedi, tu sei già più originale. Allora, il libro si intitola, è un romanzo anche in questo caso, Il valzer degli alberi del cielo. L'ha scritto il francese Jean-Michel Guenassia, pubblicato in Italia da Salani. Ci sono tantissimi romanzi che parlano di Van Gogh, della sua vita, che cercano di ricostruire il personaggio, la pazzia, la sua ossessione per la pittura e così via. In questo caso cosa ha fatto Jean-Michel Guenassia di questo libro che ha avuto un grande successo in Francia? Prende il punto di vista di questa ragazza che si innamora di Vincent Van Gogh, che poi diventa sua moglie, quindi è raccontato dalla voce di Marguerite. Attraverso quindi gli occhi, proprio le riflessioni di Marguerite, noi come lettori conosciamo questo Van Gogh, questa sua ossessione per la pittura, la sua follia, perché poi insomma si è scoperto che era bipolare. E tra l'altro si aprono anche nuovi scenari sulla morte di Van Gogh, perché Guenassia ha studiato tanto chiaramente per scrivere questo romanzo, ha consultato dei testi, dei saggi recenti nei quali si sostiene che Van Gogh non si sia suicidato. Diciamo che non esistono prove né in un senso né nell'altro, ma tendono a pensare, diciamo, gli ultimi studiosi dell'arte, della storia dell'arte soprattutto, che non sia stato un suicidio, ma che, diciamo, dal punto di vista quasi iconografico era forse più interessante parlare di suicidio di questo pittore folle, insomma. Quindi è un romanzo, ecco, appassionante soprattutto per chi ama ricostruire pezzi di storia del passato, chissà veri o verosimili, questo nessuno può dirlo. Mi affascina molto, ma vedo che accanto a te hai un librone alto che però è fantastico per me e per un sacco di appassionati del Sabato del Villaggio che aspettano ogni volta i capitoli che apriamo sulle serie TV. Questo te lo dedico, Marta. L'ho portato apposta. Allora, si intitola Il mio secondo dizionario delle serie TV cult. Questa volta siamo da Beverly Hills a The Walking Dead, scritto da Matteo Marino e Claudio Gotti, pubblicato da Becco Giallo. Becco Giallo è una casa editrice che spesso pubblica fumetti o comunque libri, diciamo, illustrati. Anche in questo caso ci sono delle illustrazioni. E appunto avevamo già parlato tempo fa del primo volume, in questo caso si parla appunto di altre serie TV di culto che tu conoscerai tutte naturalmente. Lo fanno in modo anche simpatico e divertente, perché ci sono, diciamo, gli stessi capitoletti per ogni serie TV, quindi diciamo gli inizi, i personaggi tipici, il marchio, cioè come dire il segno distintivo, il certo, cuore pulsante della serie, poi il salto dello squalo, che è una parte che mi piace da morire, il salto dello squalo, che appunto avevamo spiegato già agli ascoltatori, che ovviamente sono preparatissimi perché tanti ascoltatori ascoltatori del Sabato del Villaggio sono appassionati di serie, quando la serie televisiva diventa un po' improponibile, un po' surreale, poco credibile. Quando fanno risuscitare Bobby Ewing, vabbè, io sono rimasta ferma al paleolitico. Esatto, oppure quando nella famosa puntata di Happy Days, con una mossa di surf si salta lo squalo, e allora lì da lì la scena veramente poco plausibile diventa quando la serie TV salta lo squalo. Alcune serie salto dello squalo ce l'ho ben presente. Poi naturalmente la firma, cioè sceneggiatori, registi, chi sono. Le vite parallele, molto carina, perché giocano a individuare le somiglianze e le affinità elettive fra diciamo quella serie e altre serie oppure altre opere. Poi naturalmente non può mancare la parte spoiler, ma è ben segnata con precisione, quindi chi vuole può saltare la parte spoiler. Giusto per citarti alcune serie, allora House of Cards, la conosco. Fantastica. La conosco, ce l'ho. Lo so che questa ti piace, Downton Abbey. Beh, sono ancora così un po' orfana della fine di Downton Abbey, bellissima. Ma poi ce n'è veramente per tutti i gusti, da Una mamma per amica, Sherlock, Transparent. Fantastica. Quanto mi è piaciuta bello, quella. Bello, mi piace molto. Io guardo molto, però sempre solo la prima serie e poi insomma già dalla seconda inizio ad annoiarmi e la terza l'ho già abbandonata. Vabbè, non sei una vera appassionata. No. Ti consiglierò, ti restituirò i consigli con dei consigli di serie che non abbandonerai dopo una stagione sola. Farò i compiti. Qualcosa per i ragazzi? Un consiglio come sempre per bambini e ragazzi? Guarda, per bambini delle scuole medie, dagli 11 ai 13, ma possiamo arrivare anche diciamo tranquillamente già ragazzi, ai 14. Bambini si offendono. No, hai ragione, ragazzi delle scuole medie. Il libro si intitola Io e il Papu. L'ha scritto Luigi Garlando, pubblicato da Rizzoli. Garlando è quello che scritto, giornalista sportivo ma anche scrittore per bambini e ragazzi, che aveva scritto la serie Gol, ma anche quei libri molto belli, per esempio Per questo mi chiamo Giovanni, sulla vita di Falcone, che tra l'altro è uno dei libri più letti nelle scuole. Oggi, perché bella, viene proprio adottato cosa, come libro bello. Scolastico, oppure L'estate che conobbi il Che, perché ha voluto raccontare la storia di Che Guevara ai bambini e ai ragazzi che conoscono solo l'immagine, perché magari i genitori, zii, eccetera, hanno questa immagine in casa e dice: ma chi è questo? Certo. E in questo Io e il Papu ha immaginato un rapporto d'amicizia fra un bambino autistico, Arcadio, e Papa Francesco. Questo bambino un giorno spedisce quattro figurine al Papa. È un bambino appunto autistico che non parla da 2 anni perché insomma è rimasto scioccato da un attentato che ha subito la madre. E appunto manda al Papa questa busta con quattro figurine che sostanzialmente vogliono dire, il modo in cui lui comunica, ti chiedo il miracolo di farmi tornare a parlare, perché il bambino appunto ormai non parla più. Allora cosa fa Papa Francesco? Prende un'auto con il car sharing, diciamo la marca, va a trovarlo a casa sua, questo bambino vive chiuso nell'armadio, il Papa tra l'altro è un Papa malato, insomma inizia questo rapporto tenerissimo di amicizia, loro dialogano scambiandosi le figurine dei calciatori. E infatti perché Papu? Perché la figurina che il bambino attribuisce a Papa Francesco è quella di Alejandro Gomez, centrocampista argentino dell'Atalanta, detto appunto il Papu, cioè il piccolino, il bassetto, insomma. E quindi da Papu, Papa, insomma, c'è tutto un gioco molto, molto divertente. Insomma, è un libro tenero e veramente che apre un po' la mente dei ragazzi. Io e il Papu. Ultimo consiglio per i libri del Sabato del Villaggio è quello del cacciatore di libri. E come sempre ascoltatelo in podcast su radio24.it, c'è anche l'app, comunque se lo volete sentire on air, tutti i sabati alle 6:30 del mattino se siete mattinieri, oppure alle 22. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Baci. Il Sabato del Villaggio. È il momento dei consumi e li vorrei introdurre con, beh, fantastici. Mi piacevano un sacco gli Ultravox. parleremo oggi con Maria Luisa Pezzali, qualcosa che ha a che fare con, le macchine. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, buon pomeriggio a tutti. Sì, oggi ti voglio parlare di un canale di vendita molto particolare, vicino alla quotidianità, ai gesti da tutti i giorni, insomma, di molti di noi, le vending machine, quelle che tutti noi chiamiamo le macchinette. Ah, certo. I distributori automatici. Sì, esatto, una delle innovazioni che riguarda appunto il settore in questo momento è quella dei prodotti che sono offerti in vendita, non più solo caffè e merendine, ormai ogni prodotto insomma è vendibile in una macchinetta, c'è il latte fresco, ci sono i farmaci negli orari di chiusura delle farmacie e poi c'è la frutta, il pane fresco appena sfornato, la pizza, ci sono macchinette in grado di sfornare pizze veramente appena fatte, poi altri prodotti, quelli che io chiamo dell'ultimo minuto, sono le 9 di sera e ti accorgi che non hai il latte o i biscotti per la colazione, ebbene molti supermercati, soprattutto quelli medio piccoli, insomma cosiddetti di vicinato, si sono attrezzati e hanno una bella macchinetta fuori che è attiva appunto negli orari, durante gli orari di chiusura, una bella comodità. Un'altra delle innovazioni che riguarda il settore, e tra l'altro Marta è un settore non da poco, va molto bene, 3,4 miliardi di euro il fatturato, gli ultimi dati ci dicono questo. Deve esserci stata un'impennata recentemente, perché io la settimana scorsa ero rimasta senza soldi nella chiavetta del caffè e non avevo moneta, l'ho ricaricata con 20 euro e tutti ne approfittano perché dicono: ma come carica la tua chiavetta? E mi tocca offrire il caffè a tutti. Buona, secondo me c'è... Non lo sapevo, adesso sarò una di più. È l'ora del caffè, vabbè, poi ti offro un caffè. Esatto. Devo avere determinato un'impennata negli ultimi periodi. Esattamente, sì, sei stata tu Marta. Sì. Però tra un pochino, perché ormai si stanno diffondendo le macchinette smart, quindi super digitalizzate con gli schermi touch, non avrai più bisogno delle monetine, ma di tutti i sistemi di pagamento digitali, quindi via smartphone, via app, addirittura puoi offrire il caffè a un collega a distanza, che bello, in un'altra città, e gli scrivi: c'è il caffè pagato, lo trovi alla macchinetta. Si può prendere un caffè insieme anche se si è lontani. Esatto, come insomma, sono romantica. queste innovazioni insomma sono arrivate anche in questo settore. Alcuni dicono che sia la vending machine la nuova frontiera dello shopping e parlano di una vera e propria self service mania. Lo sai che adesso arriveranno i messaggi di quelli che dicono: però è freddo, non parli con nessuno, moriremo tutti soli e tristi. Ma insomma, invece ci sono teorie di business che dicono che le migliori idee in ambito lavorativo vengono dove? Alla macchinetta del caffè, quindi avete capito, è così più che al bancone, quindi insomma ha un suo perché la macchinetta. E poi dicevamo tanti prodotti diversi, non so se ti è capitato di vedere i trucchi via vending machine, le calze, le cover dei cellulari, perché sono cambiati anche i posti dove vengono posizionati i distributori automatici, non più solo appunto i luoghi di lavoro, le scuole, le stazioni, ma anche le gallerie commerciali, le gallerie dei centri commerciali, o perché no addirittura su strada, quindi insomma si stanno avvicinando molto al consumatore. Come ho scoperto tutte queste cose? Chiacchierando con il presidente dei giovani imprenditori di Confida, che è l'associazione italiana distribuzione automatica, Roberto Pace. Ecco che cosa mi ha detto. Si conta già oggi che in Italia le smart vending siano circa 80.000, quindi il 10% del parco macchine attualmente installato. Una delle principali evoluzioni dei distributori automatici è il touchscreen. È un sistema che permette la possibilità di interfacciarsi direttamente con il cliente, ma soprattutto fornire informazioni più specifiche sui prodotti che distribuiamo. Quindi questo vuol dire lista degli ingredienti, schede nutrizionali, personalizzazione del prodotto anche. Esatto, diciamo che la lista degli ingredienti è sempre stata presente su un distributore, ma in modo cartaceo e poco visibile. E in realtà attraverso il touchscreen riusciamo a dare delle informazioni aggiuntive, quindi anche gli allergeni, l'apporto calorico del prodotto, la possibilità anche tra l'altro di personalizzare più prodotti, perché ad esempio nelle bevande calde ci sono distributori automatici che consentono la possibilità di andare a combinare proprio manualmente i prodotti fra di loro per ottenere la bevanda preferita. Quando parliamo di sistemi di pagamento l'evoluzione è notevole. Per parlare delle cose più semplici, l'introduzione della carta di credito è sicuramente una novità, ma soprattutto la possibilità di pagare tramite smartphone e mobile app. La possibilità, tra l'altro, che abbiamo utilizzando questo tipo di sistemi di pagamento è quella di profilare il nostro cliente, le sue abitudini, i suoi gradimenti e soprattutto le fasce orarie in cui preferisce una determinata bevanda, per andare poi a riproporre nel momento in cui il consumatore si avvicina al distributore quello che più preferisce, ottimizzando così il tempo, ma soprattutto anche dandogli un'esperienza di consumo molto più gradevole e personalizzata. Sarà possibile anche offrire un caffè a distanza ad un amico? Assolutamente sì, nei distributori automatici ormai si stanno installando sempre di più sistemi di telemetria e quindi sarà possibile controllare da remoto il distributore, poter prenotare una bevanda da remoto e quindi utilizzare tutte quelle funzioni che attraverso internet diventano più semplici e diciamo più immediate. Inoltre le vending machine vengono anche attrezzate con programmi, sempre attraverso i sistemi di pagamento, di loyalty, che quindi consentono anche l'accumulo ad esempio di punti, l'acquisto di prodotti in menu prestabiliti a sconto piuttosto che in promozione. Maria Luisa, una delle cose che mi sono piaciute di più è che ti riconosce e sa già cosa vuoi. Cioè io sorrido alla macchinetta del caffè e mi fa già un 22 con un pallino solo di zucchero. Esatto, e poi altro che Starbucks, questa personalizzazione, il frappuccino, insomma, sì, tra poco sarà altro la che... norma. Esatto. Tra l'altro ho visto che adesso fanno il frappuccino unicorno, perché c'è la passione per gli unicorni, sì, rosa e azzurro. Fantastico, ma lo voglio assolutamente. Si prenota già. Ma anch'io, più o meno alla stessa età, che come passione. E come gusti. Ma mi sa che è il momento di andare a sentire le chicche della nostra Cristina Lazzati. Ciao Cristina! Ciao a tutti! Allora, eccoci tra qui. Bevande automatiche, automatizzazione di tutto il resto e frappuccini unicorno, tu cosa ci hai scovato? Allora, mi è appena arrivata questa lista di 8 punti che Slow Food, in occasione di Slow Fish, ha rilasciato su tutte quelle che sono le cose che noi crediamo, devo dire dopo che me la sono letta mi sono detta è vero, sul pesce e che invece non sono vere. Ah, fantastico! Peraltro posso aggiungere una cosa sul vending che io adoro, soprattutto in queste sue ormai nuove declinazioni. Il vending più utile è quello che io ho visto in Oxford Street all'uscita delle discoteche, che distribuiva sneakers. Perché ah, voi avete certo. Idea, dopo una serata in discoteca con i tacco 12, poi tipicamente le donne inglesi vanno a ballare senza calze, eccetera, eccetera, cioè le paghi tutto quello che vogliono, cioè non, a quel punto sei disposta. Datemele subito, ballerine o scarpe da ginnastica, datemele subito a qualsiasi costo. Ecco, ma intanto torniamo al pesce. Ricordiamo tra l'altro che Slow Fish sarà a Genova dal 18 al 21 maggio per chi volesse farci un salto. Ma allora, tanto per cominciare, cominciamo col solito sushi. Ne abbiamo parlato tanto, sono usciti molti articoli sui giornali, sull'all you can eat e quant'altro, ma per chi comunque ama il sushi, ricordatevi che il sushi è più buono. Di solito si pensa che sia col pesce più fresco, in realtà è col pesce abbattuto. Nei ristoranti in linea di massima è un obbligo, quindi abbattuto significa che viene messo in un abbattitore che è una sorta di iper freezer che lo porta in pochi minuti a meno 18 gradi e lì uccide quello che di solito che si chiama anisakis, questo parassita che altrimenti ci spedisce all'ospedale o perlomeno a lungo in bagno. Per chi lo volesse fare a casa, comunque non c'è bisogno, anche se l'abbattitore pare sarà uno tra gli elettrodomestici che dal ristorante passeranno a casa come moda, ma anche se non volete comprarvi un abbattitore, però dovete tenerlo 96 ore nel congelatore domestico, se ha 3 o più stelle, altrimenti scordatevelo, non va bene. Poi il salmone, si parla molto di omega 3, omega 6 e quant'altro, il salmone tutti pensano che sia il re delle diete, soprattutto quelle ipocaloriche, nel senso che i salmoni intanto per cominciare sono per la maggior parte sono allevate. Slow Food ci avverte che se i salmoni sono rosa come quelli selvaggi, ma di fatto sono allevati, vuol dire che gli hanno messo un po' di colorante, quindi guardatevi dai salmoni che assomigliano allevati, che assomigliano un po' troppo al rosa invece di quelli selvaggi. Lasciateli lì. E poi ci fanno presente che in 100 grammi di salmone fresco ci sono circa 180 calorie. Le alici ne hanno 96, mentre i calamari 70 e le cozze addirittura meno di 60. Per cui nel rate del mondo del mare, diciamo che il salmone è ok, ma non è esattamente magro. Poi un'altra cosa, il pesce bistecca è più caro, quindi è di maggiore qualità. Anche in questo caso ne è fatto vero, il pesce bistecca è più caro perché è più comodo e si chiama così, parliamo ovviamente di tonno e di spada, perché lo si cuoce più o meno come una bistecca, non dobbiamo pulirlo in modo particolare, però teniamo conto, e qui mettiamoci la mano sulla coscienza, che in particolare il tonno, ma anche lo spada e soprattutto il tonno rosso, a furia di pescarlo comincia a essercene un po' poco. Diciamo la verità, lo cuciniamo soprattutto perché è comodo. Sì, esatto, perché è comodo, soprattutto per poi appunto i bambini, così non bisogna ripuliglielo nel momento in cui soprattutto si parte dallo spada, ma poi si approda sul tonno. Però ricordiamoci appunto che di tonno comincia a essercene un po' poco. Il pesce fresco, quello che viene così, uno pensa di solito che sia locale, in realtà bisogna controllare, tra l'altro le etichette dicono tutto perché poi è pure obbligatorio scriverlo, quindi guardiamo la denominazione commerciale della specie, orata ad esempio, o branzino. Poi ci sarà scritto del metodo di produzione e qui vedete se è pescato, pescata in acqua dolci o allevato. E quindi anche in questo caso potete fare le differenze e anche verificare le differenze di prezzo tra l'uno e l'altro tipo. Poi c'è la zona di cattura e lì casca l'asino, nel senso che può essere fresco, ma fresco significa anche dell'Atlantico sud-est, cioè non necessariamente viene pescato, significa pescato girato l'angolo. Ecco. E poi anche lo stato fisico, decongelato, scongelato, oppure fresco ci sarà scritto. E poi anche la possibilità che ci siano degli additivi che sono legalissimi soprattutto per i crostacei, però laddove ad esempio siete allergici ai solfiti, sappiate che per alcuni crostacei c'è la possibilità di addizionare dei solfiti, quindi controllate se ci sono o non meno. Poi ci ricordano che c'è una stagionalità per i pesci e che quindi sarebbe meglio seguirla questa stagionalità, ad esempio, questo, visto che andiamo incontro all'estate, il nostro pesce italiano, quale sarà quello locale? Alici, gallinelle, lampughe, orate, ricciole, saraghi, sardine e spigoli. Abbiamo preso nota, quindi stiamo entrando in questa stagione, ok. Esatto. Infine gli ultimi due punti, vongole e cozze sono inquinate, non è affatto vero, mangiate tante cozze, mangiate tante vongole perché oltre ad avere come abbiamo visto dei livelli calorici particolarmente bassi, hanno anche tutto un sistema di nutrendosi di microorganismi, filtrano, presenti nell'acqua, li filtrano e quindi sono in linea di massima pulite. Ultimo punto, mangiare bene fa bene alla salute. Ebbene sì, ma ricordiamoci che i consigli arrivano comunque da Slow Fish, ricordiamoci che comunque non ci si può adesso, vista la moda, buttare tutti sui pesci, o almeno non sulle stesse specie, quindi ricordiamoci quanto detto prima, stagionalità e pesce azzurro e mediterraneo, e poi consigliano anche di buttarsi sui non pesci, cioè meduse, alghe, molluschi e crostacei, che dovrebbero avere più o meno le stesse proprietà nutritive, ma sono più in abbondanza e si riproducono più facilmente. Ho voglia di mangiare pesce questa sera, ormai mi hai fatto decidere per il menù serale, sarà pesce, anzi crostacei o meduse, insomma proverò qualcosa di nuovo. Grazie a Cristina Lazzati, al prossimo sabato! Ciao a tutti! E invece con Maria Luisa Pezzali l'appuntamento è domani. Domani con Essere Avere come sempre, dopo il GR delle 22. Ciao Marta. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta Il sabato del villaggio. Abbiamo aperto tante pagine, abbiamo parlato di libri, abbiamo parlato di consumi, di tecnologia, di cucina. Adesso però posso sedermi, sorridere, emozionarmi perché abbiamo al sabato del villaggio due straordinari artisti. Amore caro, amore mio, mi tieni come un fiore dentro un vaso alla finestra per farmi rinfrescare e con cura mi hai detto.

non sento più le lacrime, scendono giù le lacrime. La grandezza di Ferruccio Spinetti, la grandezza di Nada, la bellezza di questo disco, La Posa. Io me lo ascolterei tutto, però adesso dobbiamo dare la linea al giornale radio e poi saremo ancora insieme.